Picchetto. Picchetto. Picchetto. Picchetto. Buongiorno, io mi sono Gabriele Fasciano, ho 14 anni, vengo da Livorno, sono della Pattuglia Cobra e questa è Radio Picchetto. E io sono Tommaso Donati del Torino 2, Pattuglia Massini, di 14 anni, ben sintonizzati. Partiamo con una canzone di quest'estate molto famosa, che mi piace molto, di Dua Lipa, One Kiss. Magnifica canzone davvero, però adesso concentriamoci un po' di più su ciò che si è tenuto ieri e oggi nella vita del sottocampo. Cioè si sono tenuti gli hike di sottocampo, che si sono svolti un po' in tutta la in tutto il nord Italia principalmente. Io, il mio sottocampo, il mio reparto ad esempio, è andato in Val d'Aosta. Ah, wow. A visitare il forte di Bard e il borgo che c'è lì, che c'è là sotto. Un'esperienza davvero fantastica, fatto caldo molto. Il viaggio è stato molto divertente, anche se stancante, ed è stato emozionante anche perché abbiamo sbagliato strada, perché la mappa che ci hanno dato era sbagliata e si è infortunata una delle mie compagne di reparto, ma del resto è stato tutto molto divertente. Ci siamo fermati in una stanza del municipio con davanti uno dei parchi migliori che abbiamo mai visto, che era vietato ai bambini di età superiore agli 8 anni, però aveva davvero delle giostre uniche, una carrucola di 5 metri se più o meno, un'altalena magnifica che ti faceva sbattere, ma fa nulla, che comunque oltre ad andare su e giù ad altezze spropositate ti faceva girare e girare, che stare sulla luna in confronto sarebbe stato molto migliore. La cucina è stata molto divertente, con il classico bolle e i giochi notturni, come al solito, impegnativi, divertenti e molto divertenti. Invece io e il mio reparto di Livorno siamo andati a Chiaverano, abbiamo fatto il giro dei 5 laghi. È stato molto divertente, anche perché all'ultimo lago era balneare, quindi abbiamo fatto il bagno. Ci siamo divertiti abbastanza, l'acqua non era nemmeno tanto fredda, era tiepida, insomma. Poi siamo ripartiti subito, siamo andati in una sede in cui ci hanno ospitato, eravamo con un altro reparto e quindi abbiamo dormito e non abbiamo fatto attività notturne, ma abbiamo giocato e siamo andati a dormire insieme al reparto con cui eravamo. Bene, adesso andiamo con un'altra canzone, questa volta la scelgo io. Bene. Andiamo con Il sentiero dei Modena City Ramblers, canzone ispirata dal Sentiero dei Nidi di Ragno di Italo Calvino. Che poi questa canzone mi ha ricordato molto delle Aquile Randagie dell'opera che hanno fatto gli scout durante la Seconda Guerra Mondiale per la resistenza al fascismo. Che comunque fu qualcosa di importante, specialmente dopo l'armistizio. Durante il fascismo, come si sa, ci fu una legge, definita la legge fascistissima, impediva di far parte di associazioni che non fossero l'ONB, l'Opera Nazionale Balilla. E qualsiasi associazione volesse continuare ad andare doveva far parte dell'Opera Nazionale Fascista. In più particolar modo gli scout dovevano avere la sigla ONB, centri abitati maggiori di 2.000 abitanti, in quelli minori bisognava direttamente chiudere. Nonostante ciò, molti scout, principalmente del Milano, decisero di non chiudere e continuarono a fare attività clandestine con regolari campi estivi e parteciparono pure a 2 jambori e incontrarono di persona Baden Powell. Alcuni scout fecero pure attività davanti al balcone da cui il duce parlava. quasi come beffa. Dopo l'armistizio ci fu la nascita dell'Oscar, un'associazione fatta per gli espatri, un'associazione scautistica fatta per gli espatri dei perseguitati politici e razziali, con più di 2000 espatri lo stampaggio di più di 3000 documenti falsi, con una spesa complessiva di circa 10.000 lire di allora. Quest'opera è ricordata da molti libri, più di quanto si pensi, e venne espatriato pure un famoso giornalista, Montanelli. Va bene, dai, ora parlo un pochino. Io vorrei lanciare una canzone che a me piace molto. Someone to Stay dei Vancouver Sleep Clinic. Ora condivido con voi una leggenda che si aggira nel campo, cioè la parata dei 100 demoni, chiamata così perché alle 3 di notte, quando noi siamo nelle tende, questi demoni o spiriti si aggirano per le vie del campo nazionale. Noi non potremmo assistere a queste parate perché siamo umani, quindi ovviamente non potremmo. Però possiamo, se ci è stata data una frase piena di affetto o significato a noi, e quindi potremmo partecipare con un bacchetto e tante cose buone da mangiare. Forse sarà questo il motivo perché i capi non ci fanno uscire dopo essere andati a letto. Interessante. Comunque questa era una storia, una leggenda dell'orrore. Ora lancio una bella canzone che si chiama Gingerbread Man di Melanie Martinez. Ehi, avete fatto molte amicizie in questo campo? Spero di sì, anche perché è una cosa molto bella fare amicizie con altri scout di altri posti d'Italia e con cui, tra virgolette, litigare in senso come sì con altre parole e voi ne un altro, o in altri cibi buoni, i cibi buoni da voi. Quindi spero molto che l'abbiate fatto, e o se non l'avete fatto almeno fatevi avanti e provateci. Quindi da noi è tutto, a domani con Radio Picchetto.